esce da slide se io bye bye. Ma una volta non avevi quella app che facevi mezza foto di qua e mezza foto di là? Così venivo anch'io. Hai ragione, ce l'ho ancora. Bene. Non la uso da quella volta che l'hai vista tu. Bravo, bravo. Cos'era, 2 anni fa? Your lips give marks, but the scars don't last. Flash, time to be me again. Flash, each bubble, meet my friends. Flash, sorry, love, what was that word? I appear too nice, too nice, too nice. You can't afford to be still, shuffling your bins, smoking way too much vodka. I appear too nice, too nice, too nice. And you're talking way too much, stop before you get hit, or is that suggest you just flush? Sai che mi sa che l'ho cancellata, si chiamava Front Back. Allora, intanto che continui, io parto subito con una comunicazione di servizio. Vorrei tanto dire al nostro ascoltatore che ci ha chiamato prima, che forse non sono ancora 10 minuti fa, quindi magari ancora ci sente, che mi dispiace, ma mi sa che Marco Masini non te l'hanno messo e neanche noi siamo in grado di tirarlo fuori. Come? Però hai sentito che sigla, cioè ti tira su, ti fa compagnia in questi momenti così importanti e pregnanti. E chiamaci ancora, anche se quel telefono poi si risponde dalla redazione, che però non è qui, quindi vediamo chi ti risponde. E per il resto, benvenuti nella 170esima puntata. Perché di? No? Di Coxo Spaziale, yeah! Complimentoni! Con il ritorno di Pasquini Live, il grande W. Sì. Io sono... La Boscaro o Boscaro. Ah, oggi sei Boscaro. E poi abbiamo anche un ospite, sai? È un ospitone. Un ospitone che si chiama Marco Di Giovanni. Yes. E questa è la sua voce. Ciao a tutti, buonasera. Ed è qui perché insieme ai suoi cugini. ho detto così, non era proprio il modo di partire, però no, giustissimo, cugini. E no, vabbè, lui è un artista performativo e anche scultoreo a volte, dico bene? Scultoreo sicuramente, il fisico, sì. E installazioni, performance, scultura. Che c'ha un bellissimo lavoro al Museo della Musica, al piano terra che affaccia nel chiostro, dal 15 gennaio al 12 marzo. E siccome io ho avuto modo di vederlo e rivederlo, sia vuoto di scevro di cugini che pieno coi cugini in performance, allora ho detto, ma perché non viene a raccontarcelo, perché? No? Una cosa così è andata. Grazie dell'invito. Peccato che chiuda alle 4 del pomeriggio. Ah, davvero? Sì, vabbè. Sono arrivato alle 4:05 e l'ho trovato chiuso. Ero andato ieri l'altro, perché dico, visto che dobbiamo fare una puntata seria con Marcone, almeno... Le 4 del pomeriggio dovrebbero essere un orario di apertura, non di chiusura, però chiaramente sai, è un museo della musica, lavorano con le scuole. Per una volta volevo fare le cose come si deve, invece naturalmente... E sto coxo. Perché alla fine non è il coxo che deve andare incontro alla serietà di Marcone, no, ma è Marcone infatti. che deve coxare. Sono io che vi vengo incontro con tutta la mia serietà. Quindi, per cominciare, io direi che, come da scaletta, vaga scaletta non ce l'ho come jingle a sto giro, noi partiamo con un brano che bene o male ha una centralità nella... Sì. Scaturirsi espressivo di questa installazione performata. La centralità è anche è l'origine di tutto ciò alla fine. Da dove nasce un po' tutta la mostra, tutto il resto. E poi ma senti, ma è vero che poi abbiamo i cugini al telefono? Sembra che abbiano bevuto abbastanza da rispondere. Ah, ok. Thank you. Ebbene sì, questa è musica elettronica di ricerca ed è anche il punto centrale da cui scaturisce l'espressività di orizzonte degli eventi in mostra al Museo della Musica dal 15 gennaio al 12 marzo. In mostra è un po' difficile a dirsi perché è proprio uno spazio da abitare, con al centro qualcosa. Allora, La traccia che abbiamo sentito è di Gianluca Favaron, che è un compositore di musica elettronica con cui collaborai tempo fa per costruire un terribile oggetto ferroso a forma di cassa acustica che urlava solo i rumori della propria fabbricazione, del proprio materiale. E appunto il lavoro fu fatto proprio in collaborazione con questo musicista, compositore, che lavora quasi esclusivamente usando suoni estratti dalla realtà. E quindi, e questi suoni cos'erano? Lui mi ha accompagnato in carpenteria metallica con tanti microfoni strani che usa solitamente per i suoi dischi, come tipo quello che abbiamo appena ascoltato. Ha registrato tutta il taglio, saldature, clangori metallici, e dopo li ha sparati. Clangori, non lo so se esiste. A me piace, sì. Clangori, esiste. E fra l'altro sono di mamma toscana, quindi Fuga per Art dice ciao merde. Così? Sì. Ma con la M maiuscola? No, tutto in minuscolo. Ah, allora sono molto offeso. Va bene, no, ma io ho una domanda rientra. Ma come mai un artista di performance e di installazioni performative dal forte impatto scultoreo? Mai studiato, Fedra, ma sei bravissima. Sì, non mi ha neanche preso la dislessia, sono riuscita a leggere senza quasi errori. Ma dov'è che sei andato? In fonderia? No, in... costruire l'oggetto. E dov'eri? Scusami, ripeti. Dal fabbro. Ho detto carpenteria metallica perché fa più fico. Sì, fa molto più fico carpenteria metallica. Dal mio meraviglioso fabbro di origini siciliane. Lo salutiamo. Certo, Alcamo. Ciao Alcamo. Che bello. Francesco e il figlio Leonardo. Che bei nomi. Di Budrio. Sono a Budrio e... Ma vengono da Alcamo. Esatto, originari siciliani da Alcamo, dove fanno l'ottimo bianco da 13 gradi, che insomma noi tutti ricordiamo. Chiudiamo, che abbiamo i tempi molto serrati stasera. Quindi tu sei andato lì insieme al... a Favaron, che ha registrato tutti i rumori. Lui in studio ha scomposto tutti questi rumori, ha costruito una traccia sonora da sparare ad alto volume dentro l'oggetto stesso che era stato fabbricato. Ma quindi quei rumori sono proprio i rumori che hanno fatto i due fabbri nel mentre che costruivano quello stesso oggetto. Esatto. Lo stesso oggetto suona esclusivamente la propria origine. Sono estremamente inebriata. Hai visto? E suona tosto. Sì, suona tosto, tanto da vibrare l'oggetto stesso, vibra e aumenta anche il rumore perché vibra anche il ferro che lo costruisce. Oh, Marco, complimenti, sei l'unico che riesce a ignorare completamente i miei interventi. Ma io allora dovete sapere una cosa, che io lavorando molto con i clangori metallici sono abbastanza sordo, quindi ogni tanto sento delle cose lontanissime nell'orecchio, ma non le capisco. È probabilmente la roba che manda Stefano. E tu pensi che io sia non capisco il riverbero di un clangore metallico? Sia un disturbo, qualcosa da ignorare, lo faccio, cioè, fantastico. Penso che sia un errore, capito? È un errore. No, è una cifra stilistica del coxo. È un clangore. Avvertitemi. Come si dice clangori in polacco? Ah, rimetti lo stesso. certo. Va bene. Movish clonk viens kopolski. Semplice, no? Oh, grazie. Clunks. Tutto ciò che viene dall'est mi è gradito, Stefano. Molto grazie. Sì. Sì, molto. Adesso no, di nuovo vi ripiglio, c'è troppa tenerezza nei vostri sguardi. Allora, quindi hai 2 minuti per darci una sorta di lolli, no? No, quelli li abbiamo dopo. Di infarinatura, immagine, schizzo, abbozzo di quello che è l'installazione di cui a cui è dedicata la nostra trasmissione. Due minuti, velocissimo, la dedica alla chiusura, all'ottusità, alla concentrazione su se stessi, all'egocentrismo più assoluto. Il buco nero è la roba più chiusa in se stessi, e io ho cercato un po' di fare la stessa cosa. Ed in effetti questo amplificatore dentro questa cosa costruita che amplifica i suoni della costruzione ne è la cifra. Urla solo se stesso, ignorantissimo oggetto. Non a caso è anche al centro di questo spazio che tu hai allestito nell'installazione, che è un'installazione estremamente hai fatto un lavoro estremamente non lo so, fascinoso, che ti porta altrove all'interno di uno spazio che invece è, che cos'è, settecentesco? Non lo so, il soffitto è bellissimo, affrescato, tutto fiorito a volte. E sotto tu hai creato tutto un il resto, tutto il resto l'ho nascosto perché volevo che si vedesse solo quello. Quindi tutto il resto è diventato materia oscura e come colonna sonora c'era questo oggetto chiuso su se stesso. Ma non solo, perché qua entra in... Che ora abbiamo fatto? Qua entra in campo... Va bene, allora... Si può leggere questo... Facciamo così, voi continuate, la teniamo dopo, alla fine della puntata allora. No, non è impossibile, ogni volta che parli di buco nero i messaggi sono sempre gli identici, anche sulle chat comunque. E allora a questo punto facciamo così, per staccare un attimo io metto il secondo audio della nostra puntata. Che fa parte dell'installazione, entriamo in merito, vai. Ok. The Black Hole. Com'è? Ci sono? Dai, Marcello, un filo macellano, dimmi, no, questo è un problema di giorni, questo uomo di spiaggia, di quel come non conosciamo qui, quella l'altra scuola pure c'è, sì, non me la scuola di farmi, di questo mi ha detto da stima, come io conoscevo te, quello che conoscevo. Che cazzo ne sai tu, Pi, che hai mai conosciuto? E sti sembra appunto fra. E a to. Cosa fa? Della lo? Luma. E tu! Questa moda la dica racconta. Domenica scorsa, mi trovo a un battesimo di Rufino, c'è un veramente arrivo di Rufino. Fermo lo becca Gigi, che parliamo a chiusa. Il primo, di pace, ma è stato di pace. Uno scalato da buone, un gambere, una fede vecchio. Cosa vuoi dire? Me ne c'è il culo. Fui prima di capire, piuttosto un pacco, santa Maria. Io subito, perché ci faceva pronto, buca ciò! Così stavamo facendo dei commenti. Com'è che si chiamava quello dei Family Guy che se le trombava tutte? Quello che faceva... Quickmire. Esatto, facevate delle facce da Quickmire. Esatto. Perdonatemi, ma questo venerdì il mio minuto salta. Riprendiamo come se niente fosse la prox settimana. Non me ne parlare. Questo era il messaggio che Vino ci ha spedito 3 minuti prima di andare in onda. Non me ne parlare. Vuoi sapere che cosa gli ho risposto? Molto bene, sei licenziato. Beh, proprio così, a me però mi faceva anche i racconti di Perfetra. E dopodiché... Mi ha risposto, dai perdonami, cosa devo fare per farmi riassumere? Io ho detto, stiamo facendo l'assemblea di amministrazione, ti faremo sapere. Lui ha risposto, secondo me potremmo chiedergli di fare pacchetti da 5 minuti, separati, 5 minuti che ce li spedisce alla volta, così noi siamo tranquilli e quando siamo arrivati al terzo... Lo ripetiamo come facciamo con i 2 minuti di Lolli 4 volte. Tre puntate che trasmetto, scusami Lolli, però questa sera c'è il 41esimo. Ritornando a noi, perché non posso farmi, cioè voi non dovete farmi le risatine lì che vi fanno sbirluccate, parluccate tra di mi guardate così, facendo la faccia da dighi dighi. Perché io devo mantenere il ritmo della trasmissione, se anch'io vengo dalla vostra parte, se mi metto il W è la fine. È finita. No, infatti. Allora, che cos'era quest'audio che abbiamo sentito? Ma parlando sempre di implosione, nella prima stanza della sala ci sono tante agendine aperte tutte su un planisfero, io con la matita confuso i confini, per cui ho nascosto il planisfero e si finisce su un orizzonte delimitato dal Gran Sasso, e l'audio che abbiamo ascoltato era l'audio di questo lavoro, per cui io dal mondo concentro tutto sul Gran Sasso. E alla fine dal Gran Sasso concentro, dallo stupidissimo campanilismo abruzzese, finisco proprio al legame di sangue, perché quello che avete sentito è il prodotto di due performance che sono miei cugini. Sono miei cugini. Quindi il lavoro già dal mondo ti portava al Gran Sasso. Dunque, e l'audio. Il centro del mondo non è New York, ma è il Gran Sasso. Sono i miei cugini. No, sono i suoi cugini. Sono i tre cugini. I miei due cugini, che un mega siamo. Noi tre cugini siamo il centro del mondo. E adesso, a proposito di cugini. I cugini di montagna. A proposito dei cugini di montagna. Sì, per essere internazionale. Io vorrei chiedere ad Andrea, Ettore e Di Giovanni se e come. Ma è qui con noi, che bello. Ma lui è uno o due? Lui Andrea è l'attore, sono tantissimi, è la voce, sono. La voce che abbiamo appena ascoltato. La voce che faceva più voci, quindi lui è non tantissimo. Non occorre che ti avvicini, si prende bene lo stesso. Ah, sì, sì. E vorrei chiedere ad Andrea, Ettore Di Giovanni, se ancora non è scappato dal coxo. E sono qua. Bene, ottimo. Ah, un attore. La stessa voce di tuo cugino. Come ti è stata fatta questa proposta e com'è che Andrea, hai accettato? Ettore Di Giovanni. Sì, allora, niente, Marco... Ciao cugì. Mi ha chiamato e mi fa cugì. Tocca collaborare insieme. Per cui mi ha spiegato il progetto, mi ha spiegato di cosa si trattava. Io ho detto non saprei da dove partire. Poi però è stato molto più chiaro specificando che il primo tema, l'originale, era Origini con 2G, come cugino, no? Con 2G. E da lì ho iniziato a prendere, ho capito dove dovevo andare a parare. E per cui cosa ho fatto? Ho preso tutte le voci che mi ricordo di aver imitato da quando ho iniziato da piccolo a imitare la gente e ho ricostruito un po' il percorso della mia vita visto da altre persone. Questo è stato lo spunto. Poi naturalmente con l'altro cugino, Vincenzo, tutto si è andato modificando strada facendo, quindi con la sua strumentazione si è rimpastato tutto il discorso dal principio, per cui siamo arrivati a costruire dei cicli che si ripetevano durante la performance, per i quali alla fine addirittura c'era gente che si riferiva a questo audio come a una torre di Babele, quindi non si riconosceva più neanche l'italiano o se non il dialetto, ma addirittura era un miscuglio che ti riportava a cose esotiche, a linguaggi altri, alieni, ecco. E a questo punto io vorrei dare un elemento in più a chi ci ascolta per capire di cosa si sta parlando, perché grazie. Allora, nel Museo della Musica lo spazio è allestito da Museo Internazionale della Musica, pardonnez-moi, è per quello che ho messo solo l'abruzzese, perché sì. I cugini, l'abruzzese, andava solo in un museo internazionale. Lo spazio destinato a questa installazione è composto di due vani attigui, in realtà tre, ma il terzo non è sempre attivo. E nella prima stanza, quindi, c'è questa composizione grafica formata di agende che vanno a ricostruire il Gran Sasso in un modo del tutto particolare e ricercato, che al momento non mi perderei, magari dopo se ce la facciamo. E c'è questo output audio. Questo output audio viene prodotto in nella terza stanza a cui ho accennato, che però non è accessibile, ma solo visibile attraverso due lenti, si poteva per la White Night, la notte bianca di Arte Fiera, vedere Andrea, Ettore, Di Giovanni che questo audio lo riproduceva dal vero e con un'energia spaventosa, addirittura quando mi sono avvicinata io mi ha tirato pure un calcio in faccia. Nudo? No. E invece dall'altra parte c'era Vincenzo Core, che è l'altro cugino, il terzo, la triade dei cugini, esatto. Che suonava dal vivo. Anch'io sono imparentato con un core in Abruzzo. Attenzione. E in tutto questo, mentre Marcone stava lì, andava avanti e indietro, faceva public relations, certo. Si beveva il suo... Nudo? No. Andrea, Ettore Di Giovanni, che abbiamo qui, ha fatto la parte dell'eroe, perché è andato avanti per 3 ore. Sì. Con un'energia che è inimmaginabile. Infatti, complimenti, Andrea, Ettore. E tutta la sua energia. Tutta la sua energia, tutto quello che diceva passava dai device elettronici del cugino Vincenzo, che trasformava, tagliava, luppava, effettava, riverberava, in modo da non rendere troppo comprensibile quello che usciva fuori. Purtroppo il tempo comincia a stringere, perché poi abbiamo... Io volevo chiedere di nuovo ad Andrea Ettore com'è stato attraversare queste 3 ore e se, lui, se aveva percezione, se vedeva le persone dall'altra parte, qualche proprio memoria dell'esperienza. Ho preteso 2 bottiglie di vino Montepulciano d'Abruzzo per poter completare. Ho preteso, la prima volta mi sono state offerte, la seconda volta l'ho pretese con un'ora aggiuntiva e quelle sono state la mano santa, come si dice da noi, per poter avere l'energia, perché con l'adrenalina che spara a 1000 ti inciampi se non gli dai una frenata, e quindi assimilando così questo vinello che scendeva giù, che era una meraviglia, piano piano riuscivo a dare carburante al mio corpicione. Beh, grazie mille. Io spero che ci siano anche altre occasioni, per se passi di qua, per averti in studio e vederti di persona. Magari fate una rimpatriata tra cugini al Coxo, sai mai. E a questo punto però ti devo salutare, che devo partire avanti. Sì, con i 2000, nostra rubrica. Quindi Andrea Ettore, grazie per essere stato con noi. Ciao cugini. Ci sentiamo grazie presto. Grazie a voi. Ciao cugini. Ciao. E invece noi andiamo avanti. Sono di famiglia anch'io. Sì, direi che prima di Lolli, direi che questa è una puntata di Andrea Ettore Di Giovanni. Performance, ricerca, teatro. I 2 minuti di Lolli hanno una durata percepita variabile. Il mare. La vastità, la brezza fresca ma solo a settembre, la Romea, i tir, i canneti, i milanesi che ti pestano i piedi al bar per passarti davanti e prendere una brioche di merda, la spiaggia, gli stabilimenti, la musica di merda, gli animatori, i tornei, il caldo secco, i piedi secchi, l'acqua solo naturale fuori frigo, il cocco bello che non si deglutisce mai, le cicche tra la sabbia, i bastoncini dei ghiaccioli, le cicles, gli inserimenti ai fini commerciali degli ambulanti con gli accendini a forma di cesso, la vastità delle voragini scavate dai bambini, le folate di sabbia gettate in faccia dai bambini, i genitori dei bambini, i gelati dolzaroni, prima causa di sete nell'Occidente, sulla pelle i patacconi di troiai a protezione solare anche all'ombra, l'ombra che continua a spostarsi imprendibile sui lettini chiodati, ci consiglia di stare in casa durante le ore più calde, lo spritz, il mojito, le patatine, la grappa del duce, la vastità, la docce, le 1000 pizzerie, le 1000 rosticcerie, i 1000 ristoranti di pesce, i 1000 centri commerciali quando piove, i lungometraggi del cazzo nelle multisale, i piano bar con il sosia di Renato Zero, la disco nel high quality club, gli spritz e i mojitos nella vastità dei suoi open spaces, l'acqua solo naturale fuori frigo. Ed ogni mattina alle 5 un nuovo risveglio, grazie ai giovani di tendenza che vomitano passando in moto e dal camion della raccolta vetro. Già finito? Stai ascoltando Coxo Spaziali. Sabato 4 febbraio c'è la festa delle edizioni Rufrock Spaziali. Coxo spaziale. La Scina è quella, la riconosco dalla voce. L'altro giorno ho sentito quella voce alla COP, mi sono girata ed era lei. Ah, hai visto la Scina? Sì. Scina B. Ma come? Che salutiamo. Io. No, era la B, non era l'altra. No, Barbara. questa è la, è la Barbara. È Barbara. Io sono pensato che fosse l'altra. No, questa è Barbara. Quella che, no, questa che dice coxo spaziale, coxo spaziale. Ah no, ma io stavo parlando della pubblicità prima di questo. Ah, coxo, ok. Per allora cui sì. Abbiamo, effettivamente abbiamo fatto sentire le voci di entrambe le scine. Che bello che è quando c'è questa autoreflessività. Questa autoreflessività che farà sì che ci che Curru ci licenzierà. Ma no, è arte contemporanea, ne abbiamo la prova. È contemporaneissima. E poi noi non siamo tutti su di noi, neanche all'interno della stessa puntata. Ci concentriamo su un unico tema della ma puntata. Ma secondo te quello di Marco Masini si sarà ammazzato? Non lo so, magari mandaci un messaggino al 333-180-94-94, che non dico mai il numero così. Ah, c'è un WhatsApp, vediamo un po' cosa dice. Chissà, ah ecco, questo stavo cercando. Allora dice... Per fare i giochi con Marco. Vi sento belli ma spaventosi. Menzioni sabato sera, oltre la solita birretta al Pratello. Ciao Raio. Ah, Raio. Ah, di nuovo, grande. E poi c'è la seconda con il missile. Saluto i coxonauti e il febbraio di Budrio. Pasquini, dai un beso a Fedra da parte mia. Ciao, ciao Raio, mi piace Lolli. E a proposito di Lolli, ormai Lolli sta diventando famosissimo perché continuiamo a ripetere sempre. Sono riuscita a trasmettere per la quarta puntata consecutiva lo stesso 2 minuti di Lolli. Però ero convinta che fosse quello nuovo. Speriamo la prossima volta. E per il resto, noi a questo punto, come al solito, siamo arrivati qui. L'angolo della menzione. Dica 5 alle ore. Cioè, perché mi hai abbassato? Sei spaventoso. Dicevo domenica 5. Ah, ma ti hai spento il tail? Si è spento. Ho sbattuto sul tavolo e lui si è spento. Sono magie della radio. Fonzi. Ho visto. Di nuovo. Oh, fantastico. È incredibile. Non battete più il tavolo, per cortesia. Io sono tipo Fonzi. Sì. Però con lo stesso spirito di radiofonico di prima riprendi a dire. No. No. Spegni di nuovo, è spaventoso. Dicevo domenica 5 alle ore 18, digito ergo sum a camere d'aria. Continua la rassegna l'originale e politico. E Versavice. Il quarto appuntamento nasce dal desiderio di comunicare il disagio tragicomico della ricerca di un posto nel mondo e di una vera identità. Progetto realizzato grazie al comune di San Lazzaro e al premio Giovani Talenti Creativi 2016 di e con Ulduz, Ashraf, Gandomi e Cecilia Lorenzetti. Io leggo la prossima perché poi c'è il francese e non lo posso leggere io. E quindi dopo. Mercoledì 8 alle ore 20, playlist a Fish and Roll, uno spettacolo da bar di e con Rita Felicetti nell'ambito della rassegna quindicinale Teatro al Bar. Alla console un'attrice semicomica che alterna personaggi, voci, monologhi, pezzi musical e citazioni come in una stazione radio, la radio, o come un'interferenza tra un drink e un altro drink, tra una birra e un aperitivo, tra una chiacchiera e una sigaretta. Un'attrice semicomica è la Rita Felicetti. Sì, ma tipo, cioè, è come lei vorrebbe essere comica, ma siccome non fa ridere è semicomica, oppure è semplicemente. Ma io credo proprio di no. Però se mercoledì 8 vai, oltre penso che ti divertirai e potrai comprendere le risposte profonde a questo. Li mandi. Diversamente simpatici. Magari possono far parte della rassegna. No, perché è solo per attori. Va bene, prego. Chi va con giovedì 9, che ci sono le cose da leggere in francese? Ecco, ovviamente all'ospite, fregato subito in partenza. Allora, giovedì 9, ore 19, LFKS, Tour Reservoir, presentazione della web serie generativa, Chinodromo. Al Chinodromo, Tour Reservoir è una web serie generativa creata dal collettivo LFKS in stretta collaborazione con le abitanti e gli abitanti di Coquerieville, il più grande quartiere di Le Havre in Francia, dove si trova l'imponente torre che dà il nome alla serie. Ma che cos'è una serie generativa? Giovedì potrete chiederlo o a Jean-Michel Bruyère, LFKS, Fiorenza Manni di Ateliersi e Elisa Trento di Chinodromo, che saranno gli anfitrioni della serata. Ma bravo! Fatica. Tocca a me? Già. Ma ci sono di nuovo degli LFF perché in realtà 10, sono a Bologna in collaborazione con Ateliersi e le altre realtà che li hanno intercettati. Andrea Ettore Di Giovanni da giovedì a domenica, mi pare, ma ne parleremo meglio al Coxo della prossima settimana. Dunque venerdì 10 alle 19:30, per cui poco prima di ascoltare noi LFKS Vita Non Nova, Black Panther Party, Une situation chez Puis Newton, Undying Love, ad Ateliersi, una prima nazionale di e con Matteo Ramon Arevalos, Thierry Arredondo, Jean-Michel Bruyère, Alexander Swan, che prevede il riallestimento della di parte della più complessa opera musicale Vita non nova, Black Panther Party, Une situation chez Puis Newton. E si tratta di una piece che evoca la storia dei Black Panther Party, una pièce, pardonnez-moi, BPP, evidenziandone gli aspetti critici, non per biasimo, ma considerandoli come la risposta ad una situazione sociale, urbana, razziale e politica esistente. Sai che una mia amica a New York abitava in nell'appartamento che era appartenuto a uno dei capi membri delle Black Panther. Interessante, connettivo, coccico. Io invece volevo dire che da quello che ho visto dai comunicati stampa e dalle foto, sembra un lavoro veramente interessante. Però tutto molto, l'ho detto. No, comunque non fosse che c'ho la trasmissione, io lo andrei anche a vedere. Amici, siamo puntualissimi. Vabbè, certo, abbiamo corso come dei deficienti. Bello. E quindi adesso abbiamo un sacco di tempo per riprendere a parlare del tema portante della 170esima puntata di Coxo Spaziale, che è Orizzonte degli Eventi. Opera di Marco Di Giovanni e i suoi cugini. Esatto. E siccome cugini al plurale non è mica cugino unico, adesso andiamo a parlare. Situation Page Newton. Beh, più o meno. Dai, Newton gli è venuto meglio a lei. Stanowisko Huey Strone Newton. Com'era quello in? Polacco. Stanowisko Huey Strone Newton. Effettivamente. Newton, anche di giapponese. Considerando che siamo in anticipo, potresti farlo andare in altre 5-6 lingue così a random. Sì. Intanto io e Marco andiamo a berci una cosa. No, non parla questa lingua qua. No, ce ne ho scelta una sbagliata. Proviamo l'azerbaigiani, neanche. Marco, io abbasserei il volume di Pasquini, ma non posso perché avete il telefono e il microfono insieme. E quindi non lo so. Vogliamo fare. Vogliamo ritornare al pensiero del clangore? Sto clangore. Io non ho capito niente di sta mossa. Allora, c'è una cosa chiusa, un buco nero in mezzo che fa del gran casino. Arrivi, sì. Poi ci sono. No, io ecco, avevo una domanda tecnica. Che non ha niente a che fare con, cioè ha molto poco a che, ma questo gran sasso, sì. Cioè è una catena montuosa, no? Sì. Però c'è anche un super sasso che lo vedi da lontano e dici questo è il gran sasso, cioè, ed è il quello? Gran sasso non è il gran sasso, fa parte degli Appennini, la catena montuosa degli Appennini, il gran sasso è un sasso, la montagna e lui Marco ha proprio ritratto quella da dove si vede, no, cioè, come si vede da casa sua, no, perché da Pescara, no, tu dici ma qual è il gran sasso, ma è quello lì, quello più alto, che siamo più lontani da Pescara, in realtà a Maiella. No, da Pescara la Maiella la vedi, però dall'altra parte vedi la catena del Gran Sasso, però non vedi. Lontanino, non sembra. Super Sasso si vede dall'altra parte. Super Sasso, io ci sono nato sotto, quindi lo vedo proprio come un Super Sasso. Tutte le mattine mi svegliavo e avevo il Super Sasso lì. E questa cosa ti segna, capito? Certo. Io quando vado in pianura non respiro. Sentite, come fai abbiamo a vivere a Bologna, scusa, senza il Super Sasso? Io vivo a Imola e ho lo studio sull'Appennino. Sentite un po', abbiamo un altro messaggio da WhatsApp, quindi io quasi lo ridico. 333-180-94-94, ridillo anche tu. 333-180-94-94, ridillo anche tu. No, facciamolo dire a Marco. Non me lo ricordo. È scritto lì. 333-1809-494. Che altro modo per dire 333-180-94-94. Perché segnando questo numero ci è arrivato un altro messaggio, un whatsappino, sms o messaggi, whatsapp. Vi ascolto anche io con tre punti esclamativi da Lagaro con il vento che è con il vento che è spaventoso in Stampatello, una grande citazione coxica. Buona serata da Giulio Lolli, con fantastico. Due pollici su. Nonostante abbiamo mandato il contributo del Lolli Senior per 4 volte consecutive, sempre lo stesso. 3.331.809.494. Bene, vi avviso che a questo punto abbiamo mangiato tutto l'anticipo e siamo di nuovo in ritardo. Siete contenti? Okay. Molto bene. Allora, cosa facciamo? Io ho bisogno di cugine Minge. Allora, facciamo così. Io metto Sant'Antonio come? Zampata. Cina. E vediamo che cosa ne succede. Da umidi la chiamavo cucina Mingè, però. Ma non mi puoi bruciare così colpi di scena radiofonici. No, bella richiesta. Antonia Lude. 3 miliardo 333 1 miliono 800 mila 400 mila. Rispetta. Io fregevo la furchetta. Sant'Antonio non se lagna con i man. Se lagna Sant'Antonio, Sant'Antonio, l'unica dello demonio. Sant'Antonio. Sin. Ascoltami qua. Tatarine. Potrebbe essere 5 tatarine. Guarda qui, me ne si riebbe, lo soprassalto. Guarda qui, guarda qui, guarda qui, guarda qui, guarda qui, guarda qui, guarda qui, guarda qui, guarda qui, guarda. Che non mi ricordavo, non avevo capito. Quell'anno. Cara, big a me. Vieni in cucina, ci sta una sorpresa per te. Vieni. No, ci c'è la porta d'ingresso che c'è appena appena appesa la porta della cucina, capito? Allora, pensa a ciò. Aprivo la porta d'ingresso. Pum, la tamba di un burrato. Usci. Abbiamo accenduto una volta, due volte. Ne smetteva. E poi mi faceva sin da un po'. Ti pare che non si è cacciata la casa. No, pezzetta. Vieni l'ascensore. Subito sceglie e apre la porta ascensore, così non potete dire, capite? Sallò. Capito? Quando arrivò sul gym. Cara. Ma te pare che io posso cacciare una bellezza come te? Guarda, fa una pirouette. Appena se c'è un errore. Questo ci vuole. Questo richiede questa condizione qua. Chi se lo può? C'è ma questo. Questo ci vuole. Hai capito, Andrea Ettore? Ma adesso che siamo amici, è amico del coxo adesso, vi trovo. Ma che coxo è sta roba? Scrive Giffo da Vicenza. Cioè prima scrive come fuga per art, poi come Giffo. Sì, no, è sempre certo come fuga per art. Da no, Vicenza viene da scrivere che coxo è, in no, effetti. Infatti, no, fra l'altro, infatti prima aveva scritto anche Soccia. Ah, però. Ha scritto Soccia. Si era già abbassato un po'. No, comunque devo dire che rispetto a tanto contemporaneo di ricerca, cioè tanta musica e anche teatro, questo c'ha un certo spessore, anche un'autoironia, forse. Va bene, io me ne vado allora. No, sì, e invece. Tante d'autoironia, voglio. Invece, visto che la musica è una grande preponderanza. Esatto. Mi anticipi così? Sì. Faglielo dire di nuovo. Vincenzo Cor. Ah, Cor. Cor, come hardcore. E invece Vincenzo, tu come lo pronunci? Io lo pronuncio core come core de mamma. Oh, che tenero. Mamma. E cugini? Ciao, cugini. Cugini con due G lo pronuncio, cugini. Amichevolmente cugì, quando lo rivolgi. Cugì, certamente, però sempre con due G, con la doppia. Ok, salutatevi pure, vai. Ciao, cugì. Ciao cugini. Bene, anche questo rituale è compiuto. Vincenzo Core, benvenuto nella 170esima, non riuscirò mai a dirlo, 170esima. Chissà cosa sarà il 177, cosa succederà? Il 177, visto che dobbiamo richiamare Bifo, come ti ricordi? La puntata 77 vi ha chiamato Bifo. È vero, lo richiamiamo. Allora, ritornando, Vincenzo Core, grazie per essere con noi, protagonista di questa ennesima puntata del Cox. Tu sei il compositore di elettronica che ha realizzato le tracce. Pongo a te la stessa domanda che ho posto all'altro cugino, al cugino Andrea Ettore. In che modo ti ha proposto Marco di collaborare a questa cosa? Qual è stato il primo nucleo attorno a cui tu hai sviluppato la tua ricerca? Ma come parla? Ma come sempre si parte da un bel pranzo insieme. Magari anche in famiglia, sotto il Gran Sasso? Quello è stato solo un'occasione per rivederci sotto il Gran Sasso e dirgli un mese poi ci siamo chiamati. E quindi dopo questo bel pranzetto si è finito a parlare i buchi neri e Marco mi ha proposto di associarmi. E si è associato. Quindi, orizzonte degli eventi, di base è un buco nero. Più che di associarmi, di risolvermi qualsiasi problema sull'audio e tutto il resto, perché ha fatto tutto lui, quindi è proprio. Quindi altro che associarmi, insomma. È bello avere una squadra di cugini, eh? Ma sono fortunatissimo, infatti, guarda, veramente. Ma anche per loro, credo, cioè è proprio reciproco. Speriamo che siano divertiti, insomma. Ma ce n'hai uno, sì, di no, che è stato bellissimo, bellissimo. No? Lavorare pure sul dialetto tra cugini è stato questo è il cugino bello. Che una volta è morto, il famoso ah, lui bella ha citazione. Ah, è una citazione così poco colta che Fedra naturalmente non ha colto perché... Ah, Elio. Ah, Elio, però mi dispiace non coglierlo. Mio cugino. Lo dice anche lui con 2G, tra l'altro. Ma anche parmigiano, sì. No? A 2G. Ma voi cuginavate anche prima di Elio? Ma rispondo io. Noi ci siamo visti una volta in modo significativo quando io ero piccolo e Marco mi consigliò di leggere Siddhartha di Hermann Hesse. Oh, e poi da lì siamo intravisti negli anni, ma no, io gli ho sempre voluto un sacco bene per questo. È il cugino Vincenzo, il cugino buono. Ma si sente anche dalla voce rispetto all'altro sempre, che... E tu che cugino? Allora abbiamo il cugino buono musicista, il cugino tutto quanto energico attore, e tu che cugino sei? Quello vecchio. Ah, sei il più grande. Vabbè, li hai visti crescere, te li sei coltivati. Beh, sono stato una delle prime pecore nere della famiglia. Ah, hai dato l'esempio, quindi. Ha dato un po' l'esempio alla fine. E tu, cugino Vincenzo, anche l'hai se seguito un po'? C'è un cugino mio padre tossico che un po' ha lasciato le strade a suo tempo, però insomma. Sì, vabbè, ma qua si parla di altre tossicità. No, quella espressiva. Infatti tu, Vincenzo, sei un compositore di elettronica, ma mi raccontava Marco in una di queste serate d'arte fiera che bene o male è una scoperta abbastanza recente anche come percorso, che provenivi da un altrove. Ma per me sì, nel senso che sono chitarrista e ho studiato prima chitarra in una scuola privata, poi mi sono diplomato in conservatorio in musica elettronica. Adesso insegno in conservatorio informatica musicale. Scusami, quindi adesso tu insegni. Vincenzo Cor, compositore di elettronica. Sì. È un cappello introduttivo. E io so che oltre ad insegnare al conservatorio, tu hai anche un prossimo progetto. Un progetto antecedente che è tuttora in corso, che ha riscosso successo in un contesto particolare. Quello con Scacchioli. Quale? Quello con Scacchioli. Venezia. Ah, ok. Sì, quello. Giustamente quale? Perché questo qua gira, eh? No, fa un sacco di roba. No, perché mi sono trovato pure a suonare la chitarra elettrica in un'opera cinese. Meraviglia! Vincenzo Core è buono, ma questo non vuol dire che non sia spietato e fa un sacco di robe pazzesche in giro per il mondo. Quindi bisognava essere più specifici. No, parlavamo del progetto con Scacchioli, che magari mandiamo la traccia. Con Scacchioli sì, siamo attivi da diversi anni, facciamo ricerca audiovisiva cercando di trattare il suono e l'immagine come se fossero due voci di contrappunto di una composizione, quindi c'è un'idea forte musicale. Ora, questo è un estratto di un lavoro che è stato a Mostra del Cinema di Venezia 5 anni fa. Chiaramente c'è solo il suono e non c'è il video, non so cosa potrete immaginarvi come immagini, però il video si trova online. Dico che è sul mio sito perché cercando il mio nome su Google è più facile arrivarci, perché il titolo sarebbe Miss Candle Silico Flickering Galo. Già, è più facile perché trovarlo su Vincenzo Core. Invece il tuo sito è Vincenzo Core. È riuscito a creare il vuoto radiofonico anche a questa puntata, nonostante Vincenzo ci fosse Urzenia, elettroniczny compositor. È chiaro, no? Sì. Vincenzo, ci segui, no? Vincenzo, caro. Ma lui, beh, il polacco lo sa come le mie tasche. Ormai. Ma in che posso farmi i fatti tuoi, ma in che conservatorio insegni? Così ti vengo a stalkerare. Beh, a Pescara. Ah, fantastico, posso venire davvero. Sì. Possiamo mandargli vino Beh, magari potrebbero fare una partecipazione. Perché abbiamo questo artista che sta dalle tue parti, che ci manda ogni settimana un minuto di rubrica. Magari, non lo so, nasce un'amicizia e il coxone è... molto volentieri, molto volentieri. Magari tra se menano tra un Hong Kong e un Venezia, un New York, si finisce a Pescara a bere sì, del prosecco. Sì, poi gli estratti li avete sentiti, quindi avete un'idea di come parleremo tra noi. In realtà l'estratto dalla performance, in realtà l'estratto di questo progetto veneziano lo sentiamo adesso. Sì. Vincenzo Cor, compositore di elettronica. Vai. Salutiamo Vincenzo Cor, compositore di elettronica, grazie per essere stato con noi. Lo tagli così? Grazie sì. A voi. Ciao Vincenzo. O rimane, ciao, rimani con noi anche per i saluti? No, rimani per i saluti. Dai, allora resta ad ascoltarti l'estratto anche tu. Tanto prego, vai. Paghiamo noi, abbiamo telefonato noi, no? Vincenzo Urzenia, elettroniczny kompozytor. Città prima . E dopo arriva la fiera, ma a voglia è tagliata fuori da qualsiasi roba, tanto. Spaventoso. Che cosa? Bologna è una vecchia città. Se parli alla... un po' molli. Ma siamo sicuri che vogliamo parlare di questo proprio adesso che mancano 3 minuti alla chiusura? No, parliamo di... E che abbiamo anche Vincenzo in linea. Urzenia, elettroniczny compositor. Sì, ce l'abbiamo in trasmissione con noi in diretta. Allora chi? Chi? Diglielo, diglielo. Ma eravamo in onda, bene. No, fra l'altro era proprio un trailer quello che abbiamo ascoltato, Vincenzo. Sì, era un trailer a tutti gli effetti, ma... Del video, magari mandaci il link del video. E tu che sensazione hai provato grazie a questa domanda che ho fatto ad Andrea Ettore, a performare per 3 ore dietro quella lente in quello stanzino nudo? No, vestito. Beh, all'inizio credevo che non finisse più e il tempo non passava mai, o meglio dopo un po'. E poi alla fine ho rotto il ghiaccio, pure perché Marco ha portato il vino e quindi e quindi abbiamo dopo ho iniziato a scoprire cose, a sperimentare liberamente nelle ultime 2 ore. Un'altra curiosità negli ultimi minuti, che poi dovremo dirci ciao e scappare via, ma le bottiglie di vino per Ettore e Andrea erano le stesse che hai bevuto tu oppure 2 a testa, 4 in tutto? No, una, ma siamo professionisti sobri. Ah, ok, va bene, quindi le due bottiglie che ha preteso Andrea e Ettore erano una per sé e una per l'altro cugino, mi sembra anche giusto. Beh sì, poi non so se lui abbia abbondato, può darsi. Va bene, su questo dubbio noi ci salutiamo. Lasciamo il dubbio, sì. La 100 jeden dla siebie, jeden dla ciebie. La 177 170esima. Abbiamo già finito? Sì, puntata di del Coxo. No, perché è quello fa meno 5, questo fa il 58. Ma il mio fa posso dire? No, il 58. Lui vuole dire. Dilla. Scusa, è lui. Ma aspetta, devo leggere i messaggini. Ci scrivono: vai. Stefano W. Pasquini, vi sto ascoltando, Tiberio. Ah, e poi Tiberio, continua. Grande. Lo conosci, come... Tiberio Catellani? Forse l'avrei conosciuto. Continua dicendo: come disse il ministro passato, certo, il tunnel che arrivava fino a Ginevra dal Gran Sasso, i ministri sono ministri. Sono in macchina, vi saluto, bravissimi, devo scendere, ciao. Ma perché non ha chiamato anche a me in causa, ti ha salutato solo a te? Io sono gelosa di queste cose. Vabbè, sai com'è. Diglielo a Tiberio. Glielo dirò. Va bene. Ma okay. Invece Rai ho scritto solo a te. No, ha detto a te di dare un bacio a me. Ah. Da parte sua. Ah, vabbè. Allora, e tu invece hai qualcosa da dire che non no, che abbiamo lasciato dire? No, l'unica cosa io da tutta la cosa che ho fatto, la mossa al museo di qua, non di abbiamo là, detto niente di dove è, di no, va benissimo, abbiamo detto museo della musica fino internazionale, al 12 marzo, sì, di là, maggiore. Ma soprattutto perché ho fatto questa mossa? Perché mi ha invitato Sabrina Samori, che è una curatrice del Mambo, a cui devo dire grazie. Non dovevamo salutarla, scusa, non dovevamo parlare, mi aveva noi detto dovevamo parlare solo di lei. No, ragazzi, adesso non c'è più tempo, ne parliamo per telefono. La trasmissione doveva essere solo sulla curatrice che mi ha invitato. Lei grazie. Invece non la conosco. Grazie. Sabrina Samori. Samori. Ciao Sabrina. Sì. Samori. Grazie. Prego. Ciao. Ciao.